America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti in America 24 da New York, Mario Platero. We are near the end of an unconventional election, but as usual the polls are becoming a bigger part of the story. The most recent CBS News national poll shows Hillary Clinton with a 9-point lead over Donald Trump. CBS dice che Hillary Clinton è in vantaggio di 9 punti percentuali su Donald Trump. Ecco, è un dato di fatto, ma nella grande battaglia fra razionalità e improvvisazione che ha definito quest'ultimo miglio di corsa elettorale, ecco, devo dire che la credibilità di questi sondaggi che ci arrivano ogni giorno, ogni ora, è ormai al centro del dibattito. Vediamo dove siamo intanto, perché secondo i sondaggi Hillary Clinton vincerà il voto popolare con il 49,5% del voto contro il 43,5% di Donald Trump. Soprattutto Hillary vincerà la maggioranza del voto elettorale, quello cioè calcolato nei singoli stati, cioè ogni stato esprime dei grandi elettori, non so, il Wyoming ne avrà 3, la California 55. Ecco, la somma di questi grandi elettori dà la chiave per la presidenza americana. Perché? Perché il numero minimo da raggiungere è di 270 grandi elettori e Hillary, da un conteggio che è stato fatto sugli stati sicuri che può vincere, ha già 332 grandi elettori contro i 204,5 di Donald Trump. Ecco, però, un attimo, è possibile, come dice Donald Trump, che ci sia in realtà un complotto dei media, dei sondaggisti, dei politici, dei poteri forti contro di lui? È possibile che i dati siano stati manipolati? È possibile ritrovarci in una situazione come Brexit, quando si andò a dormire con la vittoria del no e poi ci siamo tutti svegliati con la schiacciante vittoria del sì? È possibile, infine, che questi sondaggi siano semplicemente sbagliati o che gli esperti non siano in grado di quantificare quella che molti chiamano la pancia del paese? Che è un po' questo il messaggio che sta dando Donald Trump. The results are already starting. We're way ahead in Ohio. We're way ahead in Iowa. We're doing great in North Carolina. Folks, we're winning. Ecco, Trump che dice: i risultati del voto anticipato stanno già arrivando, siamo avanti in Ohio, in Iowa, in North Carolina. Ecco, vedete, in un'email pubblicata da WikiLeaks, John Podesta chiede esplicitamente di dare più risalto ai nostri risultati negativi per demoralizzare i nostri elettori, ma non è così. Stiamo vincendo, ragazzi, stiamo vincendo. Ecco, questi sono dei comizi, devo dire, che raccolgono decine di migliaia di persone. E in effetti gli appuntamenti elettorali di Donald Trump sono molto più affollati di quelli di Hillary, cosa che sul piano dell'impatto visivo può essere fuorviante. Dunque, è possibile che Trump si fidi più di quello che vede che dell'analisi scientifica degli statistici, dei sondaggisti, e dunque arriva a concludere che possa esserci una congiura collettiva di 350, quasi 350 sondaggisti diversi? Arriviamo a Brexit. Possibile un risultato tipo Brexit in America? Gli esperti dicono di no, spiegano che le componenti demografiche americane, con le minoranze afroamericane, quelle ispanoamericane, con la forte componente del voto femminile, rendono la partita elettorale molto diversa da quella per Brexit. Era una partita quella in cui le divisioni erano soprattutto ideologiche, non demografiche. Vi faccio un esempio. Se su 100 donne al voto per Brexit si poteva ragionevolmente pensare che la divisione fosse attorno al 50%, non so, 44 contro 48, nel caso di queste elezioni Hillary Clinton ha già un vantaggio tra il 23 e il 27% per il voto femminile. Ecco, questo ci porta alla metodologia dei sondaggisti. E chi è il re dei sondaggisti? Nate Silver, sentiamolo. Who will win? Well, let's put it like this. So, Clinton came in with about a 7-point lead. And the polls showed the scientific polls, and actually some of the unscientific polls also showed Clinton winning the debate, which is a first. Ecco, Nate Silver ha fondato una società, Nate Silver lavorava con il New York Times, è diventato una celebrità perché azzeccava tutti i suoi pronostici, che si chiama 538. 538 è il numero complessivo dei grandi elettori che saranno espressi da tutti gli stati americani alla fine delle elezioni. Ed è stato intervistato al Late Show da Stephen Colbert, gli dice: ma chi vincerà? E Silver dice: mettiamola così. Hillary è arrivata all'ultimo dibattito in vantaggio di 7 punti. I sondaggi, quelli condotti su base altamente scientifica e quelli, diciamo, meno accurati, la considerano la vincitrice. In sostanza, non tira aria buona per Donald Trump. Ecco, come opera Nate Silver? Ha censito 348 società di sondaggio fra università, centri studi, piattaforme internet e ha creato un suo modello. Ha escluso quattro centri di rilevazione che considera in effetti inaffidabile, quindi scendiamo a 344. Nel suo modello si ammette la possibilità di errore, si introduce una correlazione: se un candidato vince per esempio in Ohio e smentisce il sondaggio precedente che lo dava perdente, è possibile che vinca anche la Pennsylvania, dove era considerato perdente come in Ohio. Ci sono complessi calcoli statistici nelle regressioni, negli algoritmi che simulano i risultati. L'obiettivo è di essere prudenti, di ponderare nel modo più aggressivo le possibili deviazioni dallo standard che emerge e dai primi risultati. Per depurare i dati si usano modelli che tengono conto di regressioni demografiche, di elementi fondamentali, ad esempio dati e indici economici. Ci sono vari passaggi, ci sono quattro livelli in tutto. Si tiene conto per esempio di rimbalzi o cadute dovute a situazioni speciali, tipo una convention, una notizia inattesa. Ciascuna rielaborazione viene incorporata nel risultato del livello precedente e così si arriva a una media ponderata che riflette tutti gli input inquinanti possibili su una singola telefonata o una rilevazione via internet. Li riflette nel senso che cerca ovviamente di depurarli. Ecco, quando si è arrivati a quel punto, cosa fa Nat Silver con la sua 538? Beh, ripete la simulazione che tiene conto di dati storici che risalgono al 72, attenzione, arriva in modo capillare fino alle contee, fino alle singole case, la ripete questa simulazione 20.000 volte. E dunque arriviamo alla parte finale. Accusare, come fa Trump, i sondaggisti di manipolazione dati o di complotto, secondo me è palesemente sbagliato. Basta essere preparati e studiare. Certo, se Trump dovesse vincere davvero, si tornerebbe a parlare di inefficacia dei sondaggi e soprattutto della forza dell'improvvisazione contro quella della razionalità. E io devo dire, sono un fervente sostenitore della razionalità contro il dilettantismo e l'improvvisazione. Ecco, se poi Trump dovesse vincere davvero, beh, allora avremmo avuto una rivoluzione. E la rivoluzione in questi modelli non è prevista, sono dei modelli dinamici, certo, però tengono conto di cose molto concrete. E poi, beh, se vince, beh, ma l'abbiamo già detto, si sarà verificato quel 14,5% di probabilità che oggi gli viene attribuito. E sappiamo che per quanto piccole le probabilità, prima o poi, per esempio una vittoria alla lotteria, beh, si verificano. Nel mio caso tocca sempre a un altro, chissà, magari Trump ci riesce davvero, del resto lui aveva esperienza con le case da gioco. Ci sarebbero gli altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che non vive più tempi difficili, resta pur sempre la nuova frontiera, potrete continuare a trovarli su america24.com, seguitemi su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, mi è venuta in mente una canzone molto bella di Susan Vega, una cantautrice che adoro e che è molto in tema, predictions, pronostici. Smoke from the altar, a suspended rhythm of a mode of laughing, pebbles drawn from a heap, da New York è tutto. Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going.